io sto approfittando a fare due commissioni. E niente. Va bene, oh, sei 9:10 sei qua. Già funge, Giovanni, già funge, sto uscendo, boh, forse con 8 watt, non lo so. Ma non penso di più. È la PLC1000, boh, basta, non c'ho niente. Ma va bene, va bene la radio, bella forte. Così al tu. Sì, bella forte, arriva forte qua. E poi chiara, bella chiara, va benissimo, dai. Meglio così, hai visto? La roba. La tata funziona sempre. 3B, dai, va, buon proseguimento, dai. Buon rientro, ci sentiamo. Ciao. Riprendo tu. Recapa, ok, domani ce lo sentiamo. Va bene, Giovanni, dai. Sono arrivato per il tempo te, ci ascoltiamo fra 2 minuti, dai. Cioè, fra il movimento. Quando ci vai? E cosa tu? Aspetta, quando è che ti rimetti in movimento? Fra un'oretta? Ho sentito che si colpiscono i bambini da piscina fuori, ma essendo Haiti. E dove sono questi piscini per Danieta? Hai visto la rotatoria che c'è sopra il semaforo della, come si chiama? Di Sant'Orsola, tiri a sinistra per salire verso il mercato, alla prima rotatoria a destra. Dove c'è la Sardegna? Aspetta che metto gasolio. Vabbè? E aspetta tu che metto gasolio. E di gasolio metti? A tu? Ehi, avanti. Ecchime, adesso va bene la bambina. Cosa stai facendo? Chiamate la bella la bambina! Ah, che macchina c'hai ora, Daniel? Una Panda c'ho, Antu. Una Panda ti sei preso? Cappa, la Panda 4x4 c'ho, il nuovo modello però. E l'antenna dove l'hai messo? Dove fa il buco? No, con la calavista sono. Ah, ecco. Anche dietro, io ci ho tolto una, ho messo l'altra. No, no, ho messo base magnetica, PLC1000 e andando. Già va bene allora. Non mi metto a bucare, no, Anto. Zero. Stavo pensando di metterla a posto di quella della radio, dai, dell'autoradio. Ma già resta tutto così com'è, lui, non mi interessa. Già funziona lo stesso a quanto pare. Ma poi con la radio ci metti il baracchino. Ma già va bene anche così, Anto. Basta. È che l'altra è... Se tocco quella dello stereo è troppo indietro, capito? E invece è così, c'è la centrotetto, con la base magnetica stiamo viaggiando. Ma c'hai la cosa, c'hai Daniela? La Panda, quella vecchia, vecchio modello? No, il nuovo modello c'ho, Antu. Il nuovo modello 4x4. È l'appunto quello di tua madre che fine aveva fatto. Venduta! Già un anno che l'ho venduta, mi sto a fare la posta e sta girando a Itili, sta girando. Cappa, ti ricordi che ce l'entravo io dentro? Già me lo ricordo, ogni tanto, parcheggiato, fai, disco, smotta. Avevo un bel motorino aveva con la macchina. Ma non ti credi, tanto, non andavo in un carroccio con la macchina. Aspetta che qua stanno casinando per fare le manovre, ragazzi. E poi buso tonti. Per carità, è un posto brutto che è questo, lo odio io. Lo odio. Perché poi non c'è il parcheggio, devi metterti a incastro. Mamma mia. Sono qua, non so se ce l'hai presente, dove c'è Isola Forniture. Il capannone della Nuova Sardegna, dai, lì sono. Ho capito. Va bene, va bene. Cazzo, se mi ha fatto il parcheggio. Vuoi vedere quel cazzo di parcheggio io? Se metto qua. Mettiti lì. Ma da casa è tutta un'altra cosa. Cazzo, una bomba. Anto, si conferma, no? Già stai uscendo bene. bene anche da casa. Ehi, cavolo, niente da dire. Va bene, va bene. Aspetta che da qua mi sposto e li metto. E li metto dall'altra parte, li metto. A posto, va bene Anto, dai, se continui ci sentiamo dopo. Ehi, dai, fai fai, va bene, non c'è problema. Io spero di sentire qualcuno dopo, così vediamo come funge la baracca cinese qua. Gabba, gabba, già funge, già funge. Benevenuta, benevenuta. Va bene, Romoli, dai, io ti saluto per il momento. E ci ascoltiamo dopo se coincide, dai. Andiamo a vedere a che punto sono i bambini. Ciao, ciao. Ciao, tu. Ma due ne hai? Uno è il mio, di 12 anni, e l'altro è la mia compagna, di 7. Che bello. Lo sai che c'è troppo pure io una compagna così che mi vuole bene a me, Gabriele, che sia una persona come ci deve, anche se c'ho una figlia, se c'ho un figlio me la porto lo stesso. Ehi, c'è un'altra musica tu, te lo auguro, guarda, già va bene, già va bene. Per Marco è come se fosse la mamma. Guarda, ce l'ha troppo una donna come ci deve. Cava, cava, vedrai, prima o poi, la volta gira per tutti. Ma mi pare si faccia barruta. Sembra, ma non è, tranquillo, prima o poi, non adesso, non domani, non dopo domani, ma prima o poi già arriva. Speriamo, me lo auguro. Ok, Daniele, fai, vai. Dai, andò, fai tu. Attenzione canale 10, canale 10 per la prova. Attenzione canale 10, attenzione 10 per una prova. Attenzione canale 10, c'è nessuno, 10, 10, una prova. Avanti Fabri. Ciao Anto, fai una cosa, dammi un controllo del veicolo che sta uscendo, se non vedo il segnale. La radio. Come? Che ti sta mangiando la radio? Il segnale è qua, quasi a fondo scala, ma la radio te la sta mangiando. Aspetta che mi allontano un po' dal microfono, come va col microfono a 20 cm? Vai molto bene adesso. Ok, va bene qua, no, devo, mi ero dimenticato che con questo microfono non devo attaccare troppo la bocca. Questo va bene. E il segnale è buono? Sì, sì, quasi a fondo scala. Va bene, aspetta un attimino, dimmi, adesso faccio una modifica, aspetta. Vai, vai. Guarda adesso che sono con un 10 watt, come sta andando? Bene, sei a fondo scala il segnale. Sì, vabbè, siamo troppo vicini. Già, ma pure tu sei a fondo scala. Aspetta che guardo che tolgo. Aspetta. 1, 2, 3, 9, 3. Vieni avanti. Attenzione Fabrizio, mi senti? Sì, 9.25 qua sto arrivando. Già, va bene, va. Va bene, grazie del controllo. Ma passo in verticale, sì. Sì, sì, sono... Sì, sì. Ok, ok. Andiamo bene oggi. Oh, oh. Attenzione 10K, c'è qualcuno? Antu! C'è Gabriele che me ne combina ogni tanto. Ah, te va, ha perso no, Antonio. Non penso proprio che mi becchi, no. Come dici che ti accompagno fino a Itri? Adesso vediamo, sia dove ci ascoltiamo, dai. Okay. Dove sei, in strada? Guarda, io ho preso adesso lo scorrimento veloce per Itri. cazzo, Santiago 9, sì, senza nessun problema. Meglio Guy, già va bene. No, va bene, sembra forte lì in quella zona, vero? Sì, Antu, sempre forte e chiaro qua, già va bene. Gamma, e già lo so dove lo scorrimento veloce, già lo so. Già ci sono andato il tiro di voce. Qua, prendete te solo, dietro a Piandanna. Sei forte. Sei sempre 9, abbastanza forte il segnale. Va bene, va bene. Vuol dire che fuori è tutto. Gamma, ma vediamo un po', io sono curioso di sapere fin dove arrivo. Ehi, a bambolì. Va bene, va bene. Gamma. Un bel basso è la tua casa. La mia casa è vecchio stampo, si può dire, tu, su due piani. Però trovo che sono nella conca di Itteri, capito? Il sassolo in teoria ce l'ho davanti, ce l'ho. Sembra proprio un buco, sì. A quanto pare sì, Anzu, quello è passato il convento, lì ero. Io da voi, ma già si sta bene anche lì. No, non mi posso lamentare come zona, capito? Già va bene. Ma la potevi fare? Sì, a Sassari non... A Sassari... Come mai non c'è venuto a Sassari? Perché non andava più? No, ho fatto direttamente famiglia a Itteri, capito? La compagnia di Itteri mi sono trasferito io e facevo prima. Ma dove allora? Beh, lei lavora, fa tutta Itteri, poi mi dava a scuola Itteri e... E chi era... insomma, me ne incasinato ero io. Ho capito, Ma dico, quella di Via d'Italia l'avete venduta, sì? Sì, la stessa non c'ho più niente, tanto, tutto l'atto, fuori dalle scatole. Ciao, pace e bene. E ti sei comprato Itteri? No, Itteri sono ancora in affitto. Meglio che ti la comparavi. Dovevo, ma poi tra i serrufi, come così, Antu. Anche se li prendono per pazzo, poi ho preso, va bene così, tranquillo, fidati. Gamma. Ma era molto meglio, era forse. Dove sei arrivato? Guarda, sono arrivato, sono un piccolo per tutti. Gamma, adesso ti sei abbassato molto, sei. Gamma, è vero, tu. Così, cioè adesso mi sono abbassato anche di tutto, qua sono leggermente più coperto, dai. Capo, adesso questo passaggio 6-7. Tu sempre bene a bomba, mi senti lì? Sì, Antonio, di modulazione va più che bene, forte e chiaro qua. Ma anche di segnale non mi perdi mai, vero? Di segnale non lo so perché non lo posso vedere, adesso che ce l'ho nascosto l'affalato, però di modulazione sei forte. Già va bene, dai. Dove sei arrivato? Ho superato, adesso l'incrocio per Tizio, Antu. Sono quasi vicino a Usini. A voglia. Non ho mai fatto la prova lì, ma sono convinto che arrivo benissimo, Ma se arrivi a casa, Antu, arrivi anche qua, non c'è problema. Adesso iniziamo a salire. Cappa, sì. Pensa che io sono lontano da te, sono a Lima Delta. Lo so che sei a Lima Delta. Oddio, è anche tanto lontano in linea d'aria, Cappa. Comunque non ti ho perso ancora, No, ma tu. Se ti sentivo bene dalla macchina prima, che eri con 50 watt, pensa tu adesso che sei a casa, dovrei sentirti lo stesso, ugualmente se all'ingresso di Itteri non fa problemi. Poi ho sentito Angelino la Fertilia, dove abita lui, sino a Itteri. Sì. Lì a Fertilia abita adesso. Sempre lì ha abitato Angelino, non lo sentivamo prima, adesso è abitato lì. Ho capito. Già c'è alcuna di che non intengo. Sei sempre incasinato Angelino. A lavoro e a casa, facendo, disfando e tutte le cose, capito? E quindi entra poco. scappa. Vabbè, meglio che così al travaglio. Ah, beh, ecco, meglio sì. Meglio che ci sia. Poi la radio è optionale, se si può fare bene, se no pazienza. Scappa. Ma tu sempre con la motoambulanza, sì? Io sempre lì, sono tu. Sempre lì, tumulato, mi hanno ormai, boh, basta. E un DC, dove stai lavorando, dove stai facendo? Ad Alghero. Ad Alghero te ne sei andato? ho capito. Però sei sempre qua comune. Ah, vero. Allora, dove sei ad Alghero? Che scuola sei, marino o civile? No, io sono qua, Alghero soccorso, qua. Meglio, così se mi ricopero non ci sei tu. Cosa? Così se mi ricopero lì ad Alghero ci sei tu. Ah beh, dipende da che zona, ecco. Se è parte alta ci sono io, se è parte bassa... dalla... Pietraio poi non ci sono io. Va bene, mi stai ascoltando bene, sì. Forte e chiaro qua, qua. Va bene, sono quasi arrivato, anzi, ho superato Uri adesso. Va bene, anch'io ti ascolto bene. Ciao, bombolo. Poi io ascolto benissimo, l'ascolto. Poi anche io, la grande, no, per quella zona lì già sono favorevole, dai, non mi posso lamentare. C'è quella zona un po' più coperta, ma non fa niente. Gappa. Per poco non mi sciogli il ciuvilci, non il baracchino, no. Sono di Cafuso, Sì, tu ora capisci, ti ho detto dove trovare la linea a tenere i denti. Poco fa si è avvicinato, Daniele, era 9.40, Fotoscala, 9.60. Hai detto, giro tirando e attendo lo drone e ti guvaccheggio lì sul radio. Ti stava sciogliendo tutto, là. Gappa, sì, sette qua, Santiago 7, ma ti sento sempre bene. Già va bene, mi hai superato la piana di Paulis, diciamo, dai. Adesso sto salendo, adesso siamo le prove a sinistra, quindi sono favorevole per Claudio. No, va bene, arrivi benissimo qua, non ci sono problemi. Per Claudio è molto più favorevole per Claudio di me, però pure io non scherzo. Comunque, per quella zona sì, Anto, Alghero, Iti, tutte quelle zone lì, capito? Borraghe, già, arrivo bene, anche per l'ottore già arrivo bene. Sì che ho questo problema, sorso, ma giù con preso, Sampino, mi intendi? O perlomeno mi sente, ma mi sente in mezzo al QRM. È un problema che c'è lui, perché io lo sento benissimo, la grande, perciò io la ricezione ce l'ho. Adesso per un frattempo buono solleviamo un paio di metri l'antenna, vediamo. No, io sono un problema, giusto per fare due chiacchiere già va bene. Allora ascoltavo quello della meravigliosa, E che c'è un problema lui, non è un problema nostro. Se io a te ti sento, allora quando funziona, no, come è normale, oramai siamo tanti anni in radio, no? Se non c'è un ostacolo, tu non senti a me, non sento a te, ma il fatto che lui lo senta, Santiago 7, e lui a me mi sente in mezzo al QRM, è un problema suo. Ma si fa l'antenna a Leo, glielo ho anche detto, glielo. C'è l'antenna a te, cioè passa, è troppo bassa, non erroga quell'antenna, gliel'ho detto. C'è una ricezione, perché io da Franco, che è a 50 metri da lui, arrivo benissimo, sia in AM che in FM, e Franco qua mi arriva a essere nota abbondante, quindi se io arrivo a Franco, Franco mi sente, e lui è a 50 metri da Franco, 100 metri, tanto è attaccato, e non mi sente, è un problema suo, ma non me ne faccio una ragione, no? Non che me la futti di ritardo. Franco qua arriviamo e forte, arrivo a casa. Siamo qua, Franco qua è 9.5, segnale di Sassari. Arriva fortissimo Franco, mette la ferma è 9.30. Fatti un pronto, io gli arrivo 9.10, 9.20. Anche Gavino, che Gavino è sotto, nella piana di Sorso. Gli arrivo, anche lui non mi sente, quindi cosa maggio di idea, problema mio. Non mi interessa, va bene così. Dove sei arrivato, Daniele? Lì, sono all'ingresso di Iti, di qua. Cazzo, Santiago 7 sei arrivato. È uguale anche per me. Santiago 7, Radio 5. Santiago non so che è venuta. No, toppese, non toppese. Datemi 5 minuti, arrivo subito. Sei a capo, vai fare. Sembra bene, mi senti a Itiri? Senti a Itiri? Sì, 6-7, vai così, vai. 6-7, già va bene. Kappa, dai. Hai visto, ti ha accompagnato fino a Itiri, ti ha accompagnato. Kappa, dai. Ah, anche dentro Itiri entro. Bene, meda. Ehi, dai. Ci sentiamo, dai. Ciao, ciao. Berreco. Avanti, buon po'. Salutoni a tutti, Luca Fluppi da questa parte. Ah, Luca, sì. E Kappa, appena rientrato dal lavoro. Kappa, mi stavo parlando con quello che è arrivato a Itiri, con Daniele. E Daniele lo sentivo in mezzo al QRM, lontano. No, io lo sentivo benissimo. No. 5-6 andava bene. Cavolo, dovresti sentirlo meglio tu di me, perché è in via l'Italia. Ma forse era già entrato, in paese e io ho appena acceso. Ah, il capo, sì. È entrato in paese, sì. A me in paese mi sentiva sempre bene. Capo, c'era Claudio fino a poco tempo fa. Capo, dai, bianco per me che io vado a fare la cena. Vito, va a farmi. Mio figlio. Io rimango in ascolto e se entra qualcun altro. E a capo, io adesso vado a fare la cena che anche lui si sta lamentando. Vuole mangiare. Buona peppa a tutti e due allora. E a ciao. Buonasera Luca, non tu mi hai andato a mangiare, ci sono io in ascolto. Chi è Luca, tu sei? Kappa, Luca Fluppi. Ciao Luca, hai sentito Daniele da questa parte? Ciao Daniele, ho sentito che eri in barra mobile poco fa, ma stava appena accendendo quando tu stavi staccando, per cui non ti ho sentito. Ehi, io ero dentro Itiri, Luca. Poi ho salutato Antonio prima che ci perdessimo e niente, perché tanto non sentivo più a nessuno in mezzo alle case. E oggi sto arrivando meglio lì a Itiri. Fai un passaggio lungo. 1, 2, 3, prova Luca. Ah, mi sale, sì. Diciamo che sta arrivando sempre uguale lui. E adesso arrivo meglio. Cosa ti sta fischiando? Lo sento anche io, il tuo fischio. Questione di massa è qua. Guarda adesso, Lu. Stai sempre fischiando. Fallo con l'accrocchio. La cosa adesso è successo qua, tra. Poi aspetta. Questo è come tocco il potenziometro, va? No, senta me l'uomo come era. Aspetta, riprendi Lu, che arrivo subito. Eccomi qua. Niente, lo riprendo. Sto leggendo e informandomi su internet. Antonio, ma Antonio è andato a mangiare. Hola, attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Hola. Daniele fino a Itiri ho accompagnato. Ma dove? Da qua, da Sassari, era in macchina. Ah, tu non eri in macchina. Noi facciamo dalla macchina. Sì, avanti, esci in macchina, non ti preoccupare. Ehi, vabbè. Oh, aspetta. Anto, dimmi quelli se stai distorcendo. One, two, three. No, ti dai poco ingresso, non distorce. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5. È impercepibile. Appena appena. Impercepibile proprio. Dobbiamo regolare bene, guarda adesso se sta sempre distorcendo. Assolutamente no. Allora va bene così, dai. Va bene così. La palla mia distorce. No, no. Cosa? La radio è sempre pulita così, guarda. Qui c'ho picchi positivi. No, no, c'è la compressione. Quello da quello tu, lo sto provando a regolarlo, aiutami. Guarda adesso. Già va bene. No, non me lo dire che già va bene, qui non va bene. Guarda bene, vedo se va bene davvero. Se ti sto dicendo che va bene. E va bene così? Scappa, sono contento che ho fatto proprio la prova per vedere se l'impianto va, capito? Anto, ma quello che ti volevo dire, le provate in lontananza? Sì, fino a Itiri, dentro Itiri mi sentivo sì, tranquillo. No, ma io dico dalla macchina, hai provato? Sì, ho provato che c'era cosa da Itiri e mi sentiva. Quindi già sta cambiando la situazione. Sì. Adesso il microfono di mano. Sì, già anda, già. Se ha lo stesso attacco, un giorno porto il mio microfono, quello che ci ha attaccato all'apparecchio mio, lo proviamo col microfono mio, vedi. Però non te lo do, te lo provo e basta. Se ti piace te lo compro. Lo proviamo. Che attacco c'ha quello? Del 3009, Galax, eccetera. Non lo so. La Nacento Blu c'è a 4 punte, ma non so che attacco ha. Forse c'è l'attacco invertiti. Vabbè, comunque. Si può sempre provare, dai. Se capa, si può sempre provare, sì. Adesso stavo cucinando. Vediamo se sta bollendo l'acqua. Oggi un po' di pasta e via, in bianco puro. Io mi sono comprato una pizza, quella già pronta, la metto in forno, me la condisco con il tonno e cipolle e me la butto in forno. Io sono già uscito col cane, quindi sono anche libero adesso. E niente. Pensavo che ci fosse più gente, invece non venisce più. Stasera è un po' analoga la storia. Comunque già ho fatto un bel lavoretto e non si vede nulla. Fascettato, tutto fatto bene anche davanti dove c'è la batteria. Sì. Me ne ci dà la canna, però. Anche a me quando li facevo sudavo di brutto, l'ho fatto anche a diverse persone l'impianto. Però io prima usavo quel cavo rosso e nero, quello più grosso, però, capito? Usavo quello. Sì, quello ci ho messo, con quel fusibile che è grande che hai visto. Quella è una garanzia, quello è buono. Ah, non si scioglie quello, però io una volta che stavo facendo l'impianto da... Insomma, un biglietto di 50 euro per mettermi solo l'attacco elettrico. Volevo farmi anche il buco per l'antenna, però non lascia perdere, non è fare buco. E infatti ho fatto bene, perché con la magnetica va benissimo. che ci fa le forbici, chi c'è un gatto, mamma mia. E non le lasciare in giro queste cose pericolose, le forbici, i coltelli, tutte queste cose, non le lasciare in giro, mettile apposta, perché sennò il bambino li tocca. Cavagare, cavagare. Attenzione, che alle 10 c'è qualcuno? Mi va a decidere già a bugia. Lo so, ma non rilasciare queste cose in giro, perché è pericoloso, i bambini toccano tutto. Abbassa già che stai strappando. Vedi che strappando. Ma a casa fa meglio con la valvola, è più pulito, più perfetto. Fidati, me ne accorgo anche della strumentazione io, delle stazionarie e tutto. Ti dà un risultato diverso. Allora ci vorrebbe un regolare, vai. Guarda, te lo posso assicurare, tu fai la prova. Prova con un buon BV131. Regolato come deve essere regolato. C'è tutto un altro mondo. Tanto io non ho avuto il BV131, ho avuto già un barista che attacca con 600 watt, larghissimo. Però mi spegneva le luci quando mi durava, si abbassava le luci, fortunato che adesso mi metto vociando queste valvole. Ti farò consumare un po' di correnti e la resa è la stessa. Già, in chi vi siamo esagerati? Noi stiamo parlando di un amplificatore 9 Cristo, 9, io l'ho già provato, 9 Cristo. Ma domani ne propunate ancora. Cioè, 9 Cristo. Noi stiamo parlando di un amplificatore piccolo che dà i suoi watt normali e cosa. E un'altra cosa. E tu guarda adesso se distorce la radio, lancio il trigger poi vado a passare la potenza. Già va bene ora. Dai che sta bollendo l'acqua, dai, se al limite ci sentiamo dopo, chi ci fa fame. Prendi il casino. Dai punti di vista. E non capisco anche. Ho detto che sto andando a cucinare. A cucinare sta andando? Sì, già, vado a cucinare, dai, che ci fa fame. Beh, va bene, tu dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, buon appetito, dai. Se entra qualcuno, se no, pazienza. Sì, no. Penso che sono libero, non entra nessuno. Se l'acqua negra la fa per la galleggia, se piove il gatto non si muove. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera, mi hai sentito? Dai, io mi allontano un attimo. Sta arrivando il segnale, vabbè che tu non hai smitter boot. Allora, più o meno dovrebbe essere 9, 9:05. Ciao, ciao, io ti saluto già. Ciao, a cappella, mi risorso. Ciao, ciao, a tu. E così invece come arrivo, che segnale ho? Sto già, 9:05 dovresti essere, anche la lancetta non penso che sia svariata di tanto. No, in questo passaggio ho cambiato potenza. Prova a vedere. 1, 2, 3, 4. 8:05, bu. Va bene, dai. Caccio Gavit. E io sono normale, non c'è niente attaccato adesso. Come va? Bene va. Io sto facendo con 2 watt. Con 2 watt. Sì, va benissimo. La radio non è potente come sempre, però già va bene. Gaffa, gaffa, bella, che attacchi la vitamina. Senza energia. E tu le ringrazio. No, e lei non ti ringrazia. Però non penso che vai a ritirarsi ai correnti. Con le valvole assorbono un po' di corrente, capito? Perché devono scaldare. E assorbono tanto, ma poi tu ne hai una valvola, non è che vuoi che sono risalato. E infatti, tanto venne che si zinco che vanno a bisumero, 2 kg ho fatto, tanto venne o Giulia. Con che si arrivi al Molo Nord? Ci sono valvole che sono tanto buccioli. Anche, anche. La tecnologia di danno era mancante, ha tipo bomba atomica la tiene i gozzi. Gli americani strafanno da tutte le parti. In tutte le cose vogliono essere i primi, capito? Vogliono sei un esibizionista. Ma vero mio, questi americani erano i voluti che si chiedi tutti della ballina di zia Ivana Maria Rina, tipo Gozo, Kennedy. Adesso guarda, stava mettendo la pace tra le guerre che c'erano e adesso sta facendo guerra a lui. Ma io cazzo, e ha minacciato anche a noi, ha detto che stiamo marciando male, che poi ce ne ricorderemo. Sono esempi che i tedeschi, i buriani, non so, fa pura, non solo i tedeschi, pure la Francia, anche noi. Per farsi vedere, devi andare a sempre ascoltati per un documentario che ho visto, gli americani. Però lui è inutile che si vuole appropriare di quella terra lì, di quella terra là, in Italia può fare cazzo di fuori Caraibi, può fare lì, può fare là. No, da poi si è adoppianato questa marca di che avevamo noi, Gianni, quindi l'Italia è tutta carta, tutto allo spazio. Se si cede di poco a poco, andate, se no lascia di un pallone a servizio. Tu è domani a tutti, va. È diventato un padrone del mondo. Che sto ti dicendo, devi fare, se no attacca. Così gli ha detto che se no non glielo vendevano il territorio, se non li vendevano il territorio, bombardava. Quindi dove stai dicendo? È tipo Hitler, a morire a Bigliasserito, andando adesso umiliava, adesso devi intendere così. E la Meloni può fare la stessa cosa a me. Il bello è se si scoccia l'Europa, allora può darsi pure che fece un altro casino più umano. Ma non hai sentito Corona cosa ha intervistato questo tipo? Praticamente ha detto che il padre della Meloni era spacciatore, che era un grande spacciatore, che portava la roba con l'imbarcazione. E c'era un articolo, se non sbaglio è del 2011 forse, boh. E una rivista aveva proposto, veniva scritto di Dunia Murore. Ma girava anche su Facebook quella notizia prima di... o dopo che ha fatto il parlamentare, dai, da... come si dice? Chi è? Io vi saluto e vado a cenare. Ciao Claudio, io non ti ho mai sentito vicino, sinceramente. Vai a cenare, vai, buon appetito. Io sono qua, dai, l'ho già portato. C'era poco fa con Antonio, poi mi sono spostato dal telefono con mamma, poi adesso ho già fatto la cena, quindi me ne vado a cenare. Salutami a San Pei e niente. Già l'orecchio, l'orecchio giusto per, che è differente dal 44 al 140, questo è il 44, mi sembra più spinta. Sì, è leggermente più spinta, ma sono belle tutte e due, Claudio, sono rotto dall'altro giorno. Sì, questa è più forte la radio, rimane leggermente più forte, ma tu con la voce tua, le rende potere di te due. Perché mi stavo ascoltando in cuffia, poi mi ha detto anche Fabrizio, è leggermente più, un po' più alta, cioè, però è bella anche l'altra. Vanno bene tutte e due. Va bene ragazzi, dai, un saluto circolare, Gianni, Antonio, Luca, chi c'è? San Pei, chissà assassino di Giorgio, tanto non mi intendi. Un saluto a tutti, ci sentiamo domani, che vado a cenare. Ciao, riprendi già, fai girare. Aspetta un attimo, qua. Dimmi se la radio è chiara, che gli ho fatto un'altra regolazione, abbassando il power dell'apparecchio e regolandolo così, mi dà quasi 100. Leggermente già, leggermente, ma forse un pelino deve abbassare l'ingresso. Guarda adesso, 1, 2, 3. Boh, uno spettacolo, intanto il segnale non cambia, il segnale è rimasto invariato, però ti stava smorzando appena appena la radio. Mettiti un segnalino, qualcosa di riferimento, così l'ingresso va bene, il Galaxy stai usando. Cappa. Comunque questo qua è l'A300, è la B300 che dà 170 watt, l'A300 ne deve dare 100. E allora già uno spettacolo, se ti va tutti l'amplificatore è perfetto. Sì, se stai usando il Galaxy ragazzi, va bene così. Non la sollevare di più, se no ti smorza la modulazione, capito? La fa leggermente satirina, mi capito? Però il segnale rimane variato, sempre quello. E qua mi segna quasi 100 watt, un picchi positivi. Va benissimo, alla grande, non tocca se. Ciao, un saluto a tutti, ci sentiamo domani, ciao. Ciao, ciao. Guardi se è rimasto qualcuno. Ciao. Ciao, Gianto, ciao. Ciao. No, pare me sta cucinando la pasta asciutta, me. E che pasta stai facendo tu, per me? No, sera, come si chiama? Sedarini, come si chiama? Sedarini? Sì, li porta al burro, me ne mangio, me la fucchiruta. Ora. Sì. C'è spirito di radio. Non me ne sono accorto già della strumentazione. Ogni tanto c'è un difetto questa radio, è ottima questo Cobra. Ogni tanto questo microfono fa le bizze. Sì, Anto, basta che io faccio quello che ti ho detto io. Spray per contatti e non metti il PTT. Lo primo un po' di volte il PTT di modo che scorra, però prima di mettere lo spray dai una spruzzata d'aria, perché se no si impasta con la polvere e fa casino. Gappa. Questo strumento è una bomba, l'XX 2001 Telecom, lo conosci? L'SX 2001? No. Telecom. A micro? No, lo strumento per misurare stazionaria. Ah, Roosevelt, non l'ho mai visto. Gappa. Hola. No. Cos'è il vuoto? Le patatine vuoto. Sempre patatine vuol mangiare. Ai bambini le piacciono, ma tu stai attento perché le patatine li fanno venire in orticarie. E li vengono in orticarie tutto il corpo. Una volta Manuela, quando era piccola, era andata a una festa di compleanno di un'amichetta sua, ma era piccola, tutto era nell'elementare. È tornata a casa, si è addormentata nel nostro letto come faceva sempre, poi io l'ho presa per mettere nel suo letto, vado a cambiare, tutta piena di chiazze, tutta piena, sono dovuta andare in farmacia e mi hanno dato la medicina per farle passare. Infatti non gliene do più di quelle strane, no, quelle leggere le ho dato, che non ti fanno male, capito? Anche una volta ho sbagliato quella la paprika, cazzo, e va via tutta canta le palline e tutti canti in rughe. Tu cazzo, anche tu. Ui. E non mi dare le Pringles, perché non so patatine, se vedi come le fanno le Pringles ti vuole mani in capo. Bucaria, Un impasto di roba, di patata non c'ha niente. Poi gli mettono dei sapori che le assomigliano alla patata, capito? Ma non ha niente delle patate. Ma cari dai, come fai nel casino, dai. Riprendi Sanpei. Ehi, ho letto al tuo, così sei cos'è, se le vedi o mani che le gianche. C'è la rire con di giamma che c'ha fatta longa. Venerà un po' caretto, sono contento. Le bocche appena di burro, non manco burro, appena di io, tu cazzo, non come niente stanotte. Più leggero, non mangio di gripa di sciocca, ma ogni volta no. Buonizzo, andà a vedere, poi ti viene la via festa di vino, vero Gianni? Pure io mangio leggero, allora pongo la pizza, mi pongo un poco di dure sioda sopra e via. E vai che c'è? Mi addrodio. No, vabbè non me lo fa. Vabbè che vado a vedere, va. Cavagano. Pici, cosa fai? Buenos muchacho. Gianni, oggi sono andato d'acqua a zoppo. No, per comprare gli orsi di seppia. Ma non mi vado di orsi di seppia, non ne fanno più. Sono tipo, rimane tipo gesso, quindi. Sono adesso. E quel pappagallo grande che c'è quell'ara, mi ha visto, ha detto ciao! Stavo visto e chicco si chiama. Oggi appena ho stato sempre, allora sai come ne va. Qualche magari giornata che fa bello, tanto adesso è periodo me. Se ne affrattiamo a fare una passeggiata alla spiaggia oppure dalla marina di sotto verso Castelsardo, dove c'è il bar di Gamboni, l'hai Burisecchi, nella spiaggia non si vede niente. E le trovi lì le osse di seppia. E niente, tanto basta che ne trovi una e sia pure. Insomma, quelle che vengono a fare di cose, cartongesso. E io. Infatti, te lo dicevo, ce ne scimpia, due euro una butta. Guarda, io la giubbotta è nuda, praticamente è una piccolità di l'uso originale della giubbotta. Lì si deve essere, non fa sali minerali, non fa l'usalino di umari, niente. E niente, quella là invece la mangia di più. E infatti quando mio fratello fa la curigiuria si fa passeggiare a marina di Guisette, mi dice ci sono le ossette di Sipia portate a Giorgiani. Sì, sì, se chiuso me la regalo. Sì, anche una amica mia me le ha portate, ma ci rimangono in 5 minuti, i pappagalli li distruggono a poco tempo. Poi, ma se il posatoio che era in legno si era tutto bagnurato al centro, l'ha fatto fino fino, si stava per spezzare. Ieri sono andato in un albero di olivastro, ho cercato un ramo grosso che potesse andare bene per fare il posatoio. L'ho segato, tutti sono alberi che crescono così nella strada. Ho tolto tutta quanta la... mi sono capito ad un bel... ho tolto tutta la corteccia che c'aveva, l'ho lasciato nudo. Ho preso la mola, l'ho tagliata a misura e poi gli ho fatto gli intacchi per incastrarlo nelle sbarre. E ho visto che già si posava subito, subito in chi bisogna andare. Usani che è un legno naturale. L'otto di seppia invece l'ucribinese è una tisciuga, ne compresi. E tutta di frigirlo non si vede mai. E infatti io quando c'ho tempo, adesso che stava piovendo, no, ma vicino a casa ci sono molti alberi di olivastro e mi prendo la forbice da portare e mi prendo un po' di rametti di albero di olivastro e li metto nella gabbia. Non sai come stanno tutto il giorno giocando con le foglie e non fanno casino, capito? Eia, già si vanno in appento e si danno figheggia nel culo qualcuno e gli fa quel sapore amaro, amaro e un po' amaro e loro lì si divertono. Ma lo sai che io quando faccio colazione che fa la schiuma, no, perché lo faccio con la macchinetta, lo faccio con lo schiumoso che piace a me, il cappuccino, e la schiuma che avanza la metto nella mangiatoia, che tra l'altro se lo mangio è già quasi tutto finito perché li pulisco la mattina io, no? Fatto stare, lo metto lì dentro, oh, si lo mangiare tutto se lo mangiare là. E perché li piace, tanto magari c'è anche dei nutrimenti per loro, e quindi magari a tipo colazione, e poi magari si mangiano un po' di semini, comprisi. Piazza intelligenti. Anche il panettone l'altro giorno, le domande del panettone l'ha dato un pezzettino, pure ce l'ha mangiato. Oggi l'ho preso le banane, già non idrato mai. No, vabbè, la banana vera buoni, se ridiri come si dirisi, è poco come la sbucci, la prima striscia, ma si ripete, è ambiutani. I canarini lo sai cosa mangiano? Hai visto, come si chiama, le piante della cosa, del miglio che cresce dove ci sono fontane, eccetera. Quello lì gli piace un bel canale. Io secondo me mi lascia proprio in campagna. Va la Puglia di Puglia per fare una zia minorita in terra la Puglia e poi si colpisce lungo e mezzo con i semini. Con una gattidina gli se lo mangia un bel. Ma io come coso, quando mamma ha fatto quel cavolfiore, prima di cuocere lo dico, salimi due rametti di cavolfiore, salimi due rametti di broccoli, lui vuole la zucca, e mangiane, tutta la verdura mangiane, di me, tutta la verdura fredda la mangiane. banana, anche tipo qualche fetta di pesca del sacco. L'anguria gliela metto in maniera dove possono mangiucchiarsi più il bianco, diciamo, che il rosso. No, io già rimetto proprio il cuore dell'anguria. E la frutta e la verdura della lattica, anche l'altro giorno ho comprato la lattuga, però la mangiano un giorno, poi la metto il secondo giorno e non la toccano più come il primo giorno. Già, che ti è arrivata una scorpacciata, no, Bigiri? No, già so provare i memi, so pure i gabbio, sono tipo amoreggendi, però ma giusti la gazzetta ancora non ho visto entrare. Ma lo sai quando ce ne sono belli da qua giù, quelli russi, fattore rosso, quanto sono belli, belli russi proprio, con quelli lì bisogna dare il pastoncino rosso da mangiare. Sì, oppure come si dice, il colorante vitaminico rosso. E niente, io ce li avevo due, però sono delicati questi bisogni, li viene artriti e niente, no, non lo so, perché io ce li avevo, ne avevo uno maschio a fattore rosso e la femmina era un po' più arancione, con ala bianca. Oh, si sono farati, di verro pieno si sono farati. Ma tu non ne metti di notte? Io adesso per dire li ho coperti, ho un lenzuolo vecchio, glielo metto sopra per non fare casino. Tu non lo metti qualcosa per coprire le gambe? Sì, già, sì, perché c'hanno una specie di tappetino verde sulla gabbia e poi la notte li metto una specie di distero, diciamo così, come hai detto tu, tipo un lenzuoletto tagliato appena un poco più magnetto della gabbia e glielo metto da sopra e gli scende a tendina nei fianchi e li ho fatti fare da mamma e glieli metto la notte per tipo ballumi, di cui si vede lo stesso dentro casa, però sono sensibili tutti gli uccelli. Però vedi, ma non giusti, no, non lo so, o magari erano cresciuti male. Dipende sempre, io guarda, li ho avuti fattore rosso, c'avevo l'allevamento, c'avevo quelli spagnoli, quelli fattore rosso, quelli canterini, quelli cazzo che cantano bene, e poi ne avevo uno che era tutto screziato, aveva un medico lui, quello lì si saltava tutte le femmine, lo mettevo tutte le femmine e li faceva fare le uova. Quello è l'arlecchino spagnolo, è pure un risuganterino, è arlecchino spagnolo. Poi c'è quello che c'ha i capelli tipo cinese a caschetto, visto è tipo Dedecco Gloster. Non lo so, io ce li ho gialli, arlecchino, e poi si distanza, ne si vuole sempre brincare tutti. E niente, poi c'è l'altro, e l'altro è un cardellino, una cardellina è l'altro, ce l'ho da un bel di tempo la cardellina, ed è femmina, adesso gli sono fatto il matto nuovo in testa e già ce l'ha la maschera, prima invece c'era via vista e si era un po' come si dice, aveva messo i peli, là. E le prime, ho capito. Si chiamano arlecchini portoghesi, esattamente. Esatto, di chi si rinaggiù tre, gli altri sono gialli e uno è Gloster, che rimane tipo il portoghese come colori, però c'ha i capelli, i pari varucchi in mezzo, a caschetto, grazie. Kappa e col ciuffettino, non ho capito. Io alla fiera, non so se tu sei mai andato alla fiera ornitologa, sono andato, lo facevano nel mercato, dove c'era il mercato vecchio di Sassari, c'era presente, lì facevano la fiera, venivano a Continente, c'erano uccini che avevano vinto gare, primo classificato, eccetera, erano tutti in esposizione. E a me me ne piaceva uno. E siccome io conosco quello di Porto Torres, che è un allevatore di arlecchino portoghese, che li avevo comprati tutti lì io, gli avevo detto, questo che piaceva a me, l'avevano messo all'asta, dovevi comprare il biglietto e potevi vincere all'asta. Io sono andato e l'ho tutti, me l'ho vende quello lì? E mi ha detto, no, è all'asta, non possiamo. Gli ho detto che conoscevo l'allevatore. E ha detto, vabbè, ascolta, dai, stiamo vendo, però non dire niente, dire che l'hai vinto. Me l'ha dato. Certo, ma era una potenza, dice, lo sai quanto me ne ha fatto fare di trovate alle canarine che avevo. Ehi, perché rimane sempre attivo, rimane sempre attivo, ho detto, e niente, c'ha una gabbia da 60.